Questo è il camino di Gino lo Spazzino. Tutta apposta per le ghost. Tutta apposta. Tutta apposta per le ghost. Tutta apposta per le ghost. Tutta apposta per le ghost. Tutta apposta. Tutta apposta per le ghost. Tutta apposta per le ghost. Tutta apposta. Tutta apposta. Tutta apposta. Gigi D'Agostino, quello a posto. Ogni mese è sempre il solito piattume, la solita noia. Meno male che c'è agosto. Tutto a posto a Ferragosto. Tutto a posto a Ferragosto. Tutto a posto a Ferragosto. Tutto a posto a Ferragosto. Tutto a posto a Ferragosto. Tutto a posto a Ferragosto. Tutto a posto a Ferragosto. Tutta apposta, tutta apposta, tutta apposta. Te la metto al giusto posto. Tutta apposta, Ferragosto. Tutta apposta, Ferragosto. Tutta apposta, Ferragosto. Tutta apposta, Ferragosto. Molto affettuosamente, te la metto al giusto posto, te la metto al giusto posto.